versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 20 secondi in diretta agli studi della radio di Milano. Oscar Gino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda ovviamente l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it per proporre temi o proporvi direttamente, e vi dà il numero di telefono per intervenire nella trasmissione oggi, di cui do subito il tema: 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Devo dire che in particolare sarei incuriosito e interessato se a telefonarci fossero dei dirigenti scolastici di istituti superiori. Perché? Perché parliamo oggi di un primo passo in avanti del potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, che è stato un capitolo toccato nella riforma della buona scuola, e sarei in particolare curioso di sapere direttamente dai dirigenti scolastici che sono in ascolto, di capire come e quanto sono pronti a questo potenziamento, per il quale la riforma, oltre a prevedere il rafforzamento delle ore dedicate all'alternanza scuola-lavoro, ha anche stanziato dei denari. Io vi ricordo che stiamo parlando di un blocco di ore previste per obbligo nell'intero ultimo triennio delle superiori, per un totale di 400 ore negli istituti tecnico-professionali, di 200 ore per i licei. Ecco, oggi parliamo di questo, vedremo perché, vi presenterò tra pochissimo i due ospiti, perché appunto si stanno compiendo i passi formali decisivi per passare all'attuazione di questa riforma. Nello sfondo però alcune considerazioni, non più di un minuto e mezzo, due minuti, perché in realtà se noi abbiamo in questo paese che si interroga oggi su tutti i giornali a commentare le dichiarazioni del ministro Poletti intorno al fatto se sia preferibile laurearsi a 21 anni con un punteggio più basso o fuori corso con un punteggio più alto, più che questa polemica, a dire la verità, alla quale non do molta importanza, dovremmo partire da dei dati. Ecco, i dati. E se guardiamo in Europa alla questione di cui parliamo oggi, cioè a un sistema di formazione che sia il più possibile duale, e cioè che metta l'alternanza scuola-lavoro fin dal ciclo secondario al centro dell'offerta formativa pubblica, noi non possiamo evitare di constatare due cose. Primo, che la diffidenza con cui nel sistema della formazione pubblica si è guardata questo percorso, un percorso che fin dai tempi della riforma della scuola media, abolendo il vecchio avviamento, e poi con la licealizzazione di massa, ha visto l'indirizzo tecnico professionale, quindi l'alternanza scuola lavoro, come se fosse una diminuzio intellettuale, professionale, di dignità personale, e questo ha portato oltretutto ancora nei recenti anni a una vera e propria emorragia degli iscritti all'area tecnica, all'istruzione secondaria nel nostro paese. Noi siamo passati dal 45% che era all'inizio degli anni 90 al 33% nell'anno scolastico 2014-2015, l'ultimo compiuto alle nostre spalle. Ma invece negli altri sistemi in cui questa scelta è perseguita e sviluppata nel tempo come un asse centrale della formazione secondaria, terziaria e post-terziaria, si ottengono degli obiettivi in cui i dati parlano chiaro. Primo, la percentuale dei giovani che abbandonano la scuola nel secondario, terziario e post-terziario è enormemente più bassa, cioè gli abbandoni sono molto inferiori a quelli elevatissimi in Italia. Secondo, l'occupabilità giovanile già nella classe dai 15 ai 24 anni è enormemente maggiore, e quindi la disoccupazione giovanile è infinitamente più bassa di quanto capita da noi. In particolare questo capita soprattutto in Germania. La Germania ha un sistema formativo che da sempre fa del sistema duale una scelta di fondo di come è costruita la formazione pubblica in quel paese. Quindi circa il 50% dei giovani tedeschi tra i 15 e i 29 anni, cioè quindi fino al ciclo post-terziario, post-laurea, transita in Germania attraverso il sistema che è quello della formazione lavoro, formazione nella scuola al lavoro. Questo significa che l'apprendistato nella formazione scolastica tedesca, già nel ciclo secondario, trascorre il 70% del tempo in azienda, il 30% nella scuola, e questo tipo di impostazione, che ha dei curriculum poi definiti a livello nazionale ma specificamente con grandissima autonomia nei Länder e a livello scolastico per realizzarli direttamente con le imprese, prosegue poi, oltre al canale secondario, anche nel terziario, professionalizzante, cioè nell'università. Tenete conto che il 40% degli studenti universitari tedeschi frequenta i due tipi di terziario professionalizzante, quindi universitario, in Germania, cioè le Fachhochschulen, le università di scienze applicate, oppure le Berufsakademien, le accademie professionali. Stiamo parlando di diplomi universitari basati sul sistema duale, che hanno 3 anni di durata nel caso delle Berufsakademien e 3 anni e mezzo per le Fachhochschulen, e anche in questo caso i curricula sono sviluppati in strettissima collaborazione con il mondo economico. Addirittura sono sviluppati in strettissima collaborazione a livello locale, cioè ci sono vere e proprie università professionalizzanti specializzate per vocazione produttiva territoriale. Non è un mistero, per esempio, che l'industria dell'automobile tedesca abbia due grandi poli universitari in cui si formano i tecnici e i manager delle diverse specializzazioni che sono presenti e sono un elemento di punta dell'alta innovazione tecnologica della ricerca, ma anche della gestione delle grandi case automobilistiche tedesche. Ma questo si declina nel territorio, specializzazione per specializzazione. Ora, l'Italia ha fatto un'altra scelta come impostazione del suo sistema di formazione. Io personalmente, ma il sistema Confindustria in questi anni è molto critico verso il fatto che noi non ci siamo avvicinati in maniera strutturale a esperienze di ridefinizione dei curricula come quelli del sistema duale tedesco. Pur tuttavia, in presenza di questo, fine della mia premessa, siamo oggi a un passo in avanti compiuto con la riforma della buona scuola, aumentando la parte obbligatoria nella formazione secondaria tecnica e anche in quella nei licei, con quel numero di ore che vi ho detto all'inizio. E ascoltiamo oggi dai nostri ospiti quali passi in avanti si stanno facendo per passare immediatamente dalla riforma all'attuazione. Quindi per spiegarcelo, per vedere di capire cosa ci possiamo attendere per l'occupabilità giovanile, ma anche cosa ci dobbiamo attendere adesso per risolvere i problemi organizzativi, perché molto del carico appunto starà sulle spalle dei dirigenti scolastici che dovranno verificare la possibilità di come realizzare questi cicli di alternanza scuola-lavoro all'interno dei propri istituti. Sono per parlarcene qui il sottosegretario del Ministero del Lavoro Luigi Bobba, che ringrazio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, cominciamo da Luigi Bobba. In presenza di quali novità siamo? Perché è una novità anche del giorno, per così dire. Ma la novità, lei ha fatto riferimento giustamente al provvedimento contenuto nella buona scuola, la legge 107, con appunto le alternanze previste negli ultimi 3 anni delle scuole professionali e tecniche e nei licei. Vorrei dire che c'è anche l'altro corno, diciamo, di questo sistema di alternanza scuola-lavoro o sistema duale, che è contenuto nei decreti legislativi 81 e 150, che ha a che fare con l'apprendistato formativo e un'alternanza di dimensioni, anche di quantità più consistenti, da realizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale che sono oggi presenti sia nel sistema regionale sia negli istituti professionali di Stato. Si tratta di circa 300.000 giovani complessivamente, e queste novità contenute nel decreto legislativo, nei 2 decreti legislativi, consentiranno di avere sia il contratto di apprendistato formativo dal secondo anno in poi, sia un'alternanza che sempre dal secondo anno avrà però una dimensione più impegnativa in termini di quantità di ore, ovvero 400 ore all'anno. Tutto questo diciamo, è stato poi disciplinato in modo puntuale dalla novità dell'oggi in un decreto interministeriale istruzione e lavoro, che proprio ieri la Corte dei Conti ha registrato, nel quale sono indicate chiaramente le modalità con cui realizzare questo apprendistato formativo. Quindi diciamo, siamo in presenza di due percorsi che ovviamente hanno un elemento di distinzione, ma sono stati pensati in un disegno comune che è proprio di conseguire quello che lei ha detto nella sua introduzione, ovvero che se vogliamo sconfiggere l'abbandono scolastico e diciamo ridurre il tempo di possibile inserimento al lavoro dei giovani e soprattutto fargli acquisire delle competenze che oggi le imprese non trovano sul mercato del lavoro, dobbiamo imboccare con decisione questa strada, anche camminando più velocemente di quanto sarebbe in tempi ordinari, perché abbiamo diciamo perso troppi anni nel non fare questa scelta, che fondamentalmente significa pensare che il lavoro insieme con la scuola, anche il lavoro, è una dimensione educativa e formativa, e il rapporto virtuoso tra imprese e scuola, tra formazione e azienda, è uno degli elementi che può conseguire questi risultati che ci attendiamo. Dunque, diciamo, in un lavoro comune, istruzione e lavoro vogliono diciamo provare a dare una svolta diciamo a un campo in cui sono sempre fatti tanti pronunciamenti e discorsi, ma mai delle scelte concrete o positive, come i due provvedimenti, quello della buona scuola e quello dei decreti legislativi applicativi del Jobs Act, oggi consentono di fare. Siamo appena ai blocchi di partenza, diciamo norma ha creato il contesto favorevole, adesso si tratta di percorrere la strada fino in fondo. Sottosegretario, le voglio fare una domanda che deriva anche dal fatto che io la conosco da moltissimi anni, visto che ci siamo conosciuti e incrociati quando facevamo attività giovanile. Lei era nelle ACLI, quindi insomma è una vita intera che declina il suo impegno da quando era giovanissimo per la causa del lavoro, per così dire, io gliene do atto perché la conosco da tantissimo tempo. Uno degli aspetti paradossalmente non voglio dire preoccupanti ma comunque negativi del Jobs Act e per la decontribuzione molto elevata che è stata garantita alle imprese per i nuovi contratti con il Jobs Act, per i nuovi contratti a tutele crescenti, che però forse era da aspettarcisi come effetto, è che in realtà poi l'apprendistato, quello, il contratto di apprendistato nelle imprese sta perdendo colpi nel frattempo, perché è inevitabile di fronte alla maggior convenienza di accedere da parte delle imprese alla questo, però lei fa riferimento, siccome nella nostra legislazione abbiamo tre tipi di apprendistati, di primo, secondo e terzo livello. Sì. La decrescita di contratti di apprendistato è stata relativa all'apprendistato cosiddetto professionalizzato di secondo livello, che però non è un apprendistato a finalità formativa, perché con gli altri due apprendistati di primo e di terzo livello un giovane potrà conseguire la qualifica professionale, il diploma professionale, la certificazione di specializzazione tecnica professionale, il diploma di scuola secondaria superiore e perfino la laurea triennale o il master con quelli di terzo livello. Quindi non confondiamo le due cose. No, io volevo fare solo una domanda per sapere da lei se questo décalage in realtà lei lo considera anche sto dicendo espressione, oltre che per maggior convenienza di decontribuzione, anche di un contenimento, come posso dire, di contratti di apprendistato che non lo erano davvero, fatti nelle imprese solo per convenienza rispetto al costo ovviamente di altre forme contrattuali. C'è anche questo fenomeno secondo lei? Quindi le faccio una domanda esplicitamente anche un po' autocritica verso le imprese. Le imprese molto gravate da oneri contributivi si poteva pensare che accedessero al contratto di questo tipo, quello che lei ha indicato precisamente, che diminuisce solo per convenienza contributiva. Era così secondo lei? Sì, perché se si guarda come quando è stato istituito quel contratto, la legge 196 del 2000, la legge del 1997, di fatto non è un vero e proprio apprendistato, perché di fatto è una forma di facilitazione all'inserimento, perché le ore sono 120 su 1760, quindi la parte formativa era molto marginale, Marginale, questo è il punto vero. vero, dobbiamo tornare a avere dei contratti che abbiano una esplicita finalità formativa. Poi l'impresa lo vuole tenere questo giovane, benissimo, perché avrà visto che ha fatto bene il percorso, ha qualità, competenze. Se non lo vuole tenere, il giovane comunque ha conseguito il titolo e poi si vedrà cosa vuol fare, se continuare in un altro ramo di istruzione o se vuole cercare un lavoro. Però è proprio questa cambio di natura un po' del contratto di apprendistato che è avvenuto ormai appunto nel 97 che ha fatto sì che le imprese l'abbiano preso sempre come tra virgolette un contratto scontato. Sì, un contratto scontato. No, ma siccome io per primo lo riconosco, anche se questa è Radio di Confindustria, mi interessava, immaginando che lei la pensasse così, che questo punto fosse abbastanza chiaro, per così dire. Cioè, sì, basta con i finti apprendistati, perché la formazione va fatta sul serio, va fatta nel canale della formazione scolastica e va fatta nelle imprese, va fatta il più possibile insieme, ma con la finalità esplicitamente perseguita, per sì, così dire. No? Perché nel nuovo contratto di apprendistato formativo sostanzialmente noi avremo 500 ore di formazione in aula, cioè extra azienda, 500 di formazione sul lavoro in azienda e 700 e qualcosa di ore di lavoro produttivo. Esatto, quindi produttivo. È chiaro che è un cambio di strategia radicale, direi. Rispetto a... In più questo nuovo contratto alle imprese costerà, quindi c'è anche, diciamo, abbiamo liberato di tutti i vincoli, il 60-65% in meno del contratto di apprendistato professionalizzante. Esatto. Quindi, come dire, se un'impresa vuol fare un investimento su un giovane che fa un percorso, consegue un titolo e allo stesso tempo magari poi alla fine gli guarda negli occhi. Chiarissimo, ma volevo appunto che spiegasse questo. Allora le chiedo di fermarsi con noi anche nella seconda parte, pochi minuti ancora, per sentire però l'opinione dei presidi sugli oneri che a questo punto organizzativi per realizzare questa riforma ricadono sulle loro spalle. Torniamo tra un minuto, ci sono anche telefonate, vedo, un minuto, informazione stradale, poi torniamo con i nostri ospiti. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, alternanza scuola-lavoro all'opera per tentare di praticare nel più rapido volgere di tempo possibile il potenziamento del canale dell'offerta formativa pubblica predisposto dalla riforma. Non è ancora il vero modello duale tedesco, però insomma, di questo parliamo. Però intanto molto adesso ricadrà appunto sui dirigenti scolastici e qui con noi, oltre al sottosegretario Luigi Bobba del Ministero del Lavoro che abbiamo sentito, il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi Mario Rusconi. Allora, Rusconi, che mi dice delle condizioni in cui adesso si tratta da parte vostra di mettere mano all'attuazione di questa riforma? Ma guardi, la scuola in generale, presidi, insegnanti, direi anche studenti delle superiori e genitori hanno appreso con una discreta soddisfazione l'estensione dell'alternanza scuola-lavoro anche ai licei, perché il mondo della scuola, senza entrare nei particolari, soprattutto liceale, era troppo staccato dal mondo delle professioni e del lavoro. Il problema è che l'adesione è molto forte, basti vedere i progetti che sono stati presentati entro il 5 novembre per uno scampolo di soldi che erano avanzati del 2015 da parte delle scuole italiane e che sicuramente come numero di progetti e richiesta di fondi supereranno i fondi a disposizione quest'anno, mentre invece la gran parte dei fondi arriveranno quest'anno. Sì. Il problema però è un altro, cioè le scuole ancora una volta sono state lasciate un po' sole. In che senso? Nel senso che non basta fare una legge, la buona legge 107, la definisco buona perché tutto sommato, nonostante diverse incongruenze, è una buona legge, non basta fare poi delle linee guida per l'alternanza scuola-lavoro, bisogna poi, diciamo così, fare non solo un monitoraggio ma un accompagnamento delle scuole. Ecco, questo fino adesso non c'è stato. Chi lo dovrebbe fare secondo lei? Il Ministero della Pubblica Istruzione o più il lavoro? Il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto anche con il Ministero del Lavoro, dovrebbero programmare immediatamente, già da ieri, una serie di incontri formativi, non solo con i dirigenti scolastici, che è molto più semplice perché è una persona per scuola, ma soprattutto con gli insegnanti che si andranno a interrogare su come fare i progetti. Perché diciamo che non siano formati ad hoc a questa finalità. Esattamente. Ma lei pensi, io prima di fare preside, come tutti i presidi, derivo dalla scuola, insegnavo latino e greco. Esatto. Mi fosse arrivato. Allora, lei ha posto immediatamente un problema concreto. Possiamo sentire la risposta di Bobba? Si partiranno iniziative di questo tipo, richieste da insegnanti che giustamente non sono vocati a fare questo? Ma guardi, noi rispetto alle nostre competenze come Ministero del Lavoro, abbiamo già messo in campo un'iniziativa simile, in quanto con risorse dedicate dal PON nazionale, il Piano Occupazione Nazionale, sì, del Ministero del Lavoro, abbiamo affidato 13 milioni e mezzo a Italia Lavoro per selezionare 300 agenzie formative e centri di formazione professionale sul territorio. Si è conclusa proprio l'altro giorno la call, e sono state selezionate, sì, le 300 agenzie che ieri erano a Verona a Job Orienta, che hanno proprio il compito di accompagnare, diciamo, questo processo in modo da fare i servizi di orientamento, di placement, di relazione con le aziende, e Italia Lavoro farà l'assistenza tecnica a questi 300 soggetti perché svolgano al meglio questo compito che è nuovo anche per loro, anche se in parte già l'hanno svolto e già lo sanno svolgere. Quindi diciamo che il tempo per la nostra competenza noi abbiamo già messo attivato in moto delle cose, naturalmente, perché la cosa poi va davanti. Occhio a evitare il flop, io lo chiamo flop in termini giornalistico, però per capirci, di Garanzia Giovani, perché sennò non in quest'anno scolastico ma per l'anno prossimo bisogna fare in modo che le risorse stanziate siano utilizzate al meglio, quindi questi mesi di quest'anno scolastico vanno utilizzati a questo fine, perché non ci possiamo permettere un bis di Garanzia Giovani, per così dire, con 2,5 milioni e oltre di giovani un po' delusi dopo che ci hanno creduto. Sentiamo rapidamente Matteo da Monza Brianza, che mi dicono insegna, lei è un insegnante? Sì, sono un cuoco ristoratore, insegno da molti anni in una scuola del circuito dei Salesiani nel triennio superiore, no? Sì, quindi una scuola professionale. Allora, in zona appunto di Monza. Allora, ci sono due problemi. Io dico per fortuna che quantomeno la politica si sia accorto di questo grande problema, cioè del rapporto fra le, sì, scuole e il mondo del lavoro, sì, perché fino a ieri i sindacati, a dire il vero, questa formazione lavoro l'ha sempre vista col fumo negli occhi, parlando di sfruttamento del lavoro, per cui gli stagisti magari... Sì, ma poi insomma diciamo c'è una certa diffidenza strutturata verso le aziende nella scuola pubblica, ma questo io ho voluto evitare di fare polemiche su questo, naturalmente io ne sono convinto. Però caro Giannino, volevo dire solo due cose anche, sì, agli altri interlocutori naturalmente di, dica, ben più alto livello di me. Cioè, allora, da un lato noi abbiamo una struttura imprenditoriale, io parlo per esempio del mio settore, sì, che è il turismo, dove le aziende sono medio piccole, e devo dire la verità, gli imprenditori non sono ancora pronti, esatto, per questo tipo di percorso. Mi fa piacere che lei lo dica, perché è così. È così, no? Dall'altro lato non posso non nascondere che anche le scuole, cioè io faccio un esempio per farla breve, se io mando per esempio in questo periodo, domani, lunedì partono dei miei ragazzi a fare ben 3 mesi di stage, sì, un miracolo, sì, devo dire la verità, no? Sì. Quindi già queste cose si cominciano ad applicare, okay, però il problema è che noi nelle cucine, per quanto bravi si possa essere, non abbiamo la tecnologia che c'è nel lavoro esterno. Lo so, e infatti perché funzionino queste cose bisogna appunto fare un up to date di che cosa nella scuola si porta per fare la formazione lavoro, e questo ha a che vedere con le risorse ma ha a che vedere anche con la capacità a quel punto dei dirigenti, degli insegnanti, di sapere di che cosa si parla. Per questo la formazione, per così dire, degli insegnanti che dovranno scegliere, poi fare i formatori, è molto molto molto importante. Comunque ci voleva più tempo, io intanto ringrazio il Mario Rusconi e Luigi Bobba che sono stati con noi, vi do appuntamento domani mattina dalle 10 alle 12 naturalmente ai Conti della Belva con Carlo Alberto Cannavale Maffè, con Mario Seminerio, con Renato Cifarelli. Parleremo dei 500 euro ai diciottenni e di queste prime 4 banche salvate e di che cosa vuol dire per chi ci ha rimesso i soldi. Domani dalle 10 alle 12, continuate intanto con Radio 24, grazie.